La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo mercoledì 10 di giugno, 16:31 primi 33 secondi, 10 giugno, un giorno che non piace mai molto perché è l'anniversario dell'entrata in guerra nel 1940, ma comunque è un giorno come tutti gli altri, basta ricordarsene. E come al solito grazie di essere in ascolto, in diretta qui dagli studi radio di Milano. L'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Ieri sono arrivate un paio di letterine su temi fuori dall'agenda nazionale che stiamo approfondendo per trasformarle in puntate al più presto. Vado subito all'argomento del giorno per chiedervi se volete intervenire con le vostre opinioni all'800240024 per telefonare, con gli sms sapete 349-238-6666. Torniamo oggi a cercare di capire i dati del mercato del lavoro, nella mia convinzione che l'informazione tenda ancora in questo mese di giugno, dopo sei mesi dall'inizio dell'anno, a darvi talvolta una lettura che giornalisticamente deve essere sintetica, ma di mese in mese e di trimestre in trimestre un pochino troppo, tra virgolette, gridata, quindi autocritica giornalistica, molto gridata, perché come sapete, ne abbiamo più volte parlato, ne parliamo approfonditamente ogni sabato ai Conti della Belva. C'è dietro, ohimè, una contrapposta propaganda politica. Il governo, che tende a dire che il mercato del lavoro si è imbizzarrito tra nitriti molto promettenti e travolgenti ritmi di aumento dell'occupazione da una parte e soprattutto di sostituzione dei contratti di lavoro con meno contratti a tempo e più a... si continua a dire tempo indeterminato, in realtà non c'è più il tempo indeterminato, più contratti a tutte le crescenti, e nei titoli questo finisce di solito, mentre invece secondo me il compito di un'informazione che prescinde dalle propagande contrapposte è quella di offrirvi degli strumenti per riflettere nella comparazione dei numeri 2015-2014, ovviamente sapendo che bisogna perderci un po' di tempo perché capire i numeri, interpretarli paragonarli è una cosa che rischia, lo so già, quindi non mandatemi sms su questo, o meglio mandatemeli però vi rispondo in anticipo, di essere un po' noiosa, però aiuta a capire meglio per rispondere alla seguente domanda: è vero che c'è una discontinuità così vigorosa nell'occupazione e che quindi abbiamo significativamente svoltato, ergo devo levare indoors all'inizio, tanto per arrivare a un punto che mi viene sempre riproposto, oppure i numeri ci dicono che dobbiamo essere ancora prudenti perché qui di grande svolta profonda non ci sono ancora le tracce? Ecco, questo è l'argomento della puntata. Prima di presentarvi l'ospite che è un addetto ai lavori perché lavora nella divisione di analisi del mercato e delle politiche del lavoro dell'OCSE, quindi è uno abituato a fare questo per mestiere e non per vicinanza o distanza politica dalle tesi che si contrappongono al dibattito pubblico, una sola osservazione che ha anche essa la sua importanza, però, perché oggi è uscito il dato Istat, l'indice destagionalizzato sulla produzione industriale di aprile, e ancora una volta il dato Istat sulla produzione industriale di aprile ci fa capire che la svolta non c'è ancora. Le attese erano per un incremento dello più 0,3% sul mese di marzo, quindi come dato congiunturale, e invece è diminuito dello 0,3% rispetto a marzo. E se guardiamo il dato tendenziale, cioè la base annuale, e lo correggiamo per gli effetti del calendario, la produzione industriale rispetto a l'anno precedente è aumentata solo di 0,1% su base annuale. Capite che siamo in presenza di una cosa sulla quale dovremmo essere molto prudenti, anche perché, conclusione di questa introduzione, guardate che sperare in una ripresa dell'occupazione che sia asimmetrica rispetto al tossicchiarmi e al tossicchiante andamento del PIL non va bene, capite? Perché significa solo che abbassiamo ulteriormente la produttività. Allora, il nostro ospite si chiama Thomas Manfredi e lo ringrazio di essere collegato con noi per telefono. Grazie. Buon pomeriggio Thomas. Grazie Oscar, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, i nostri ascoltatori, o meglio probabilmente alcuni o molti tra loro, hanno visto sui giornali a proposito delle comunicazioni obbligatorie, quindi stiamo parlando del set di dato dato dal Ministero del Lavoro, ieri un titolo molto allettante, perché dice 2,5 milioni di contratti attivati nel primo trimestre. Tentiamo di spiegare, pur non avendo una lavagna e quindi i numeri seguirli è più complicato per radio, che cosa davvero c'è in quel numero rispetto all'anno precedente. Ma guarda Oscar, innanzitutto io volevo fare una piccola premessa che si allaccia un pochettino al tuo discorso sul titolo gridato, è colpa del giornalismo, è colpa della propaganda politica. Secondo me essenzialmente è colpa di una scarsa, posso dire, coordinamento delle press release, dei comunicati stampa delle nostre amministrazioni, perché al momento noi abbiamo allora tre tipi di osservatori statistici, chiamiamoli così, quindi abbiamo i dati Istat, abbiamo i dati del Ministero del Lavoro, abbiamo anche i dati praticamente dell'osservatorio sul precariato dell'Istat. Io quindi mi domando se le amministrazioni non potessero fare un piccolo sforzo di, chiamiamolo, omogeneizzazione, come succede in altri paesi, ovvero di rilasciare i dati nello stesso momento su fonti diverse, spiegando al lettore o al giornalista che non è prettamente specializzato tecnico, nel statistico. Campo, esattamente, poi soprattutto sul mercato del lavoro, dove diciamo che le definizioni piuttosto unità contrattuale piuttosto che lavoratore sono piuttosto sfuggenti, non sono sempre chiare. Quindi darei 50% di responsabilità appunto alla politica, che non vuole decidere che questo sia fatto, e l'altro 50% alla solita inefficienza della nostra pubblica amministrazione, che è incapace a quanto pare di coordinarsi per avere quantomeno, diciamo, dei dati statistici che possano essere letti dai non addetti ai lavori in maniera giusta, in maniera corretta. Tu lo sai perché te ne occupi, che una delle ragioni fondamentali del fatto di avere queste tre rilevazioni diverse su campioni diversi e che temporalmente confliggono, dipende anche molto dal fatto che ciascuna delle unità che realizza queste rilevazioni è gelosissima del fatto che sia lei e che non debba convergere questa raccolta dei dati e il loro rilascio, e di fronte a questo il politico dice ma siccome si tratterebbe di razionalizzare, quindi molto probabilmente anche risparmiando su qualche contratto di lavoro, ecco perché poi la cosa finisce così. Però vabbè, tanto per dire, è un problema tecnico a fare questo tipo di esercizio, quindi voglio dire qualsiasi mancanza da questo punto di vista deriva appunto dalla mancanza di volontà politica, perché io credo che da un punto di vista tecnico armonizzare le press release su fonti diverse, che poi in realtà, come spiegherò poi, sono combacianti, sarebbe facile, darebbe un pochettino più, diciamo, di trasparenza al discorso pubblico sui nostri giornali, e darebbe anche un pochettino più di fiducia del cittadino medio nella statistica economica, e come sappiamo nel nostro paese solitamente i numeri sono trattati un po' come dei paria a ogni piede sospinto. Quindi questa qui era la piccola premessa che io volevo fare. Per tornare un pochettino invece ai numeri che ci interessano un po' di più, io ho scritto sul mio blog, mi sono scaricato ieri i dati giornalizzati, quindi per me è un costo opportunità molto basso fare questo, perché ci sono abituato nel mio lavoro, quindi. Però capisco che per una persona che non è prettamente specializzata nel campo, cercare di trovare il filo comune tra i diversi numeri non sia così semplice. Che cosa dicono i numeri delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro? Se li compariamo appunto allo stesso trimestre dell'anno precedente, come dovrebbe essere fatto, perché i dati non sono neanche destagionalizzati tra l'altro, si vede che la creazione netta di nuovo lavoro, dove da un nuovo lavoro intendiamo nuovi lavoratori che hanno un nuovo contratto, è più o meno rispetto all'anno scorso uguale a 50.000 unità. Quindi questo sta tra... noi stiamo praticamente, l'unità di osservazione è il settore privato, ok? È il settore privato, esclusi un certo tipo di sottosettori, e quindi se noi paragoniamo questo più 50.000 a quello che ci dice l'Istat essere successo nello stesso trimestre, vediamo che i dati più o meno combaciano. Quindi non vi è alcuna storia confliggente fra una fonte e l'altra. Esatto. Che cosa ci dicono questi numeri? Ci dicono che la ripresa, purtroppo, come infatti il dato sulla produzione industriale ci dice anche oggi, è una ripresa piuttosto fiacca. La domanda di lavoro rimane bassa, quindi la creazione netta di impiego rimane bassa. Dove invece ci sono delle notizie un pochettino più positive sono sulla quota di contratti appunto a tempo indeterminato o a tutte le crescenti, che sta leggermente aumentando rispetto all'anno scorso, attorno ai 3,5 percentuali, cannibalizzando in parte l'apprendistato, però appunto cannibalizzando anche parte dei contratti a tempo determinato che il governo stesso ha diciamo messo sotto la sua attenzione, quando secondo il governo, secondo l'analisi degli esperti del governo, avere una quota di contratti a tempo indeterminato più alta potrebbe migliorare, possiamo dire, le condizioni lavorative dei lavoratori, potrebbe portare a un mercato del lavoro meglio funzionante, in cui i lavoratori hanno più incentivo a investire in capitale umano e le imprese a fornirlo. Quindi queste, diciamo che un po' gli obiettivi di questi incentivi e di questa riforma del lavoro era appunto di cercare di porre un argine alla dualità, estrema dualità del nostro mercato del lavoro, in maniera tale che la qualità dei lavori creati fosse migliore. Da questo punto di vista possiamo dire che gli incentivi hanno avuto un effetto, però ricordiamoci che gli incentivi sono sussidi, ovvero abbattono il costo del lavoro momentaneamente in maniera non strutturale e quindi hanno un costo incorporato. Se noi paragoniamo la creazione di nuovi contratti indeterminati con il costo da breve periodo, nel breve o medio periodo, di questi incentivi, secondo me, secondo il mio giudizio, i risultati non sono straordinari, perché appunto ci si aspetterebbe quantomeno che la creazione netta di impiego fosse maggiore. Siccome gli incentivi invece sono stati dati in maniera indiscriminata, nel senso a tutti i nuovi contratti entrati in vigore all'inizio del 2015, c'è una perdita netta, dead weight loss la chiamano gli economisti, derivante appunto da contributi sociali più bassi che non saranno coperti. Quindi si deve tenere conto, nel momento in cui si tiene appunto in considerazione dei risultati, anche del costo dell'incentivo. Quindi se smettiamo sulla bilancia questi due aspetti, secondo me ci sono buone notizie, però non sono così eccezionali come appunto da una lettura dei giornali parrebbe. Ricordiamo che il costo, qui ci sono le cifre del governo, della decontribuzione, il governo ha stanziato per la decontribuzione quasi 1.9 miliardi per il 2015, la stima annessa al provvedimento era che sarebbero occorsi 5 miliardi poi per ognuno dei due anni successivi, in caso di conferma. Il governo ha più volte ripetuto che intende confermarli, ma sono 5 miliardi poi per il 2016, 5 miliardi per il 2017, quindi 12 miliardi. Il governo stesso sa che il 1,9 miliardi stanziato per quest'anno non basta e ha detto che poi più avanti nel corso dell'anno lo intende rifinanziarlo. Quindi è una roba che costa quantomeno 12 miliardi di euro. La domanda diventa: se nei prossimi trimestri fossimo in presenza di un andamento che migliora, ma migliora non di questa enormità rispetto al 2014, se quei 12 miliardi sono davvero bene impiegati. Perché, tanto per ricordare, siccome chi è al microfono adesso, o il professor Luca Ricolfi o altri, invano tentammo di dire al governo, quando si trattava di decidere la decontribuzione, di riservatela agli occupati veramente aggiuntivi rispetto alle piante organiche dell'anno precedente, e la risposta fu no, li diamo a tutti i nuovi contratti. Ecco che a quel punto il problema si porrebbe anche in termini di proporzione della finanza pubblica impiegata rispetto ai risultati concreti che si vedono nel mercato del lavoro. Però io devo chiederti, Thomas, prenderti dopo i 60 secondi adesso di informazione stradale un po' di tempo per spiegare a alcuni nostri ascoltatori che, come è giusto, non capiscono e ci accusano di essere dei gufi, perché dicono: ma se sono 2,5 milioni le attivazioni del trimestre, come fate a dire che sono solo 50.000 gli aggiuntivi rispetto al 2014? Come sta il numero delle attivazioni a milioni rispetto a pochi aggiuntivi di decine di migliaia? E qui, cari ascoltatori, il problema è capirci e spiegare quindi che cosa sono le attivazioni davvero, perché se voi pensate che un'attivazione di un contratto significa un occupato in più, sbagliate. Uno, due, se pensate che l'attivazione di un contratto sia comunque un contratto che uguale un lavoratore nel corso dell'anno, sbagliate anche lì, perché i lavoratori hanno più di un'attivazione a testa l'anno, visto che c'è la quota ovviamente dei contratti a tempo. Però tentiamo di spiegarvelo con un po' di pazienza dopo l'informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui, siamo tornati a tentare di capire come quel 2 milioni e mezzo di attivazioni rilevate nella comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro l'altro ieri, andando a fare una comparazione rispetto al 2014, significa che c'è un miglioramento, certo, di occupazione sul 2014, ma molto meno rilevante e sicuramente non di rottura, di discontinuità positiva, come sembrerebbe. Però Thomas, sentiamo di spiegare che cosa sono queste attivazioni. Assolutamente, ecco. Allora, diciamo che l'unità statistica di rilevazione in questo caso sono le unità contrattuali in un determinato periodo di tempo, quindi sono dati di flusso dal tempo T a un tempo T più 1, solitamente il periodo di tempo preso in considerazione da questi dati sono i trimestri. Quindi nel trimestre che cosa succede? Solitamente in un mercato del lavoro funzionante, qualsiasi mercato del lavoro, può essere quello italiano ma può essere anche quello francese, il numero di contratti che vengono attivati in un determinato numero di tempo è estremamente superiore al numero di lavoratori che sono interessati dall'attivazione stessa, perché noi stiamo misurando dei flussi in realtà, quindi non degli stock di occupati. Quindi per esempio nel primo trimestre del 2015 sono stati attivati 2.500.000 contratti più o meno, nello stesso periodo di tempo sono cessati 2 milioni di contratti, quindi praticamente la differenza fra i due dà le unità contrattuali in più che ci sono praticamente, che sono state verificate nel trimestre. Allora mi pare che questi numeri grezzi, se confrontati appunto rispetto all'anno prima, danno una differenza più o meno simile attorno a, adesso non mi ricordo male, credo che fosse attorno ai 40.000, nel senso sì, che da un anno all'altro ci sono 40.000 unità contrattuali in più rispetto allo stesso periodo di riferimento. Anche questa cosa è da tenere in considerazione: la maggior parte delle attivazioni può avvenire in periodi diversi rispetto alle cessazioni, quindi praticamente quando noi andiamo a vedere i dati andremo a vedere una serie che è fortemente stagionale. Siccome la serie è corta per delle ragioni tecniche, non è possibile fare l'aggiustamento stagionale della serie, quindi va comparato sempre il livello il flusso del 2015 col trimestre corrispettivo dell'anno precedente. Quindi è molto semplice. Una volta presa in considerazione le unità contrattuali aggiuntive rispetto all'anno prima, quello che bisogna fare è considerare il fatto che una persona può essere attivata più volte nello stesso trimestre. La maggior parte delle attivazioni, le cessazioni, ha una durata media, credo, è bassissima, più del 40% ha una durata media inferiore al mese di tutte le cessazioni. Quindi potrei capire benissimo che in un mercato del lavoro dinamico come quello italiano, come può essere quello francese, succede, questa è la normalità delle cose. Nel momento in cui dovessimo fare appunto dovessimo trasporre questo numero sui contratti alle persone, dovremmo vedere il numero medio di attivazione e di cessazione per ogni persona, e quindi facendo questo tipo di correzione viene fuori praticamente una cifra simile, che è quella che ho detto prima, ovvero 50.000 occupati in più rispetto all'anno prima, quindi voglio dire al trimestre dello stesso del 2014. Quindi semplicemente, cioè, spero di essere stato abbastanza semplice la complessità della cosa. No, è solo per far capire meglio, che caso non è che uno improvvisa e arrivi a dire poi guardate che siamo in presenza di 50.000 più o meno scarsi in più in un trimestre rispetto a... Bisogna spiegare che quando sono le attivazioni e che c'è un rapporto medio di attivazioni per lavoratore che è più o meno di 1,4 e che anche per le cessazioni è superiore all'unità questo rapporto. Ecco, tutte cose che ovviamente nella sintesi, l'articolo sul giornale che è sotto il titolo 2 milioni e mezzo di contratti attivati senza dirvi quanti sono quelli cessati e soprattutto fare lo stesso ragionamento sul 2014 non hanno il modo per dirvi, ed ecco perché poi alla fine si creano delle false impressioni. A questo punto ti faccio una domanda che ha a che vedere non con i numeri ma con un tuo giudizio. Se fossimo in presenza nei prossimi trimestri di una media confermata, perché l'aumento qui nella quota delle attivazioni del tempo indeterminato è più o meno in questi dati del 4%. Sì. Ma se fossimo in presenza di un miglioramento del tempo indeterminato, ripeto che non c'è più, sì, perché si chiama contratto a tutele crescenti, sì, e basta pagarvi 6 mesi e andate a casa, per essere chiari, esatto, brutali, non bisogna più usarla l'espressione tempo indeterminato, ma se fossimo in presenza di un miglioramento del contratto a tutele crescenti rispetto al tempo determinato del 4%, davvero, secondo te, avrebbe senso tutto sto cancan per fare un più 4% delle tutele crescenti? Assolutamente, secondo nel mio giudizio mi aspetto, in maniera non gufistica, diciamo così, visto che spesso e volentieri chi va contro il governo viene bollato con questo nomignolo oramai abbastanza simpatico di gufo, io mi aspetto che ci sia una forte accelerazione anche per quanto riguarda la quota di contratti indeterminati che vengono attivati nei trimestri successivi. Se così non fosse, e l'effetto fosse questo che abbiamo visto iniziare degli incentivi, credo che non potremmo assolutamente parlare di un grande successo. Quindi io mi aspetto assolutamente un aumento di questa quota. Se non si dovesse verificare, e secondo me si potrà verificare soltanto se la crescita economica tornerà a dei livelli un pochettino più robusti, credo che il gioco non so se valga la candela. Ecco, io mi limito da ultima ruota del carro a sottoscrivere in pieno questa tua dichiarazione, compreso l'auspicio che nei prossimi trimestri invece siano i numeri più forti. Ti faccio, chiaro, faccio riflettere. La cosa importante è aspettare che i dati si mostrino e che ci siano i dati opportuni per poter valutare, poter valutare le politiche governative. Il che significa non farlo prima del tempo, né a favore né contro. Esattamente. Allora, noi abbiamo fatto, per esempio, voglio portare la mia esperienza personale, abbiamo fatto una valutazione della riforma spagnola del 2012 del mercato del lavoro, abbiamo fatta molto preliminary e abbiamo utilizzato comunque almeno come minimo 8 trimestri di dati dopo la riforma. Questo mi implica la serietà. Allora intanto riflettiamo, aspetta, ti faccio riflettere su queste frasi che ha pronunciato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che dire, puoi fare tutte le riforme del mondo, lo ha detto a Expo parlando all'Assemblea di Federalimentare, puoi fare tutte le riforme del mondo, ma la più grande riforma strutturale, dice Matteo Renzi, e parlare bene dell'Italia. Allora, è la nostra modestissima opinione, come l'avete sentita argomentare da Thomas Manfredi e la mia anche, è che noi non chiediamo niente di meglio che dei dati, dei numeri, della realtà per poter parlare bene dell'Italia, altrimenti no, farlo per principio no, quella è propaganda, rispettabile, ma propaganda è, propaganda resta. Continuate con Radio 24, grazie a Thomas Manfredi, appuntamento come a domani.